1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Attenzione, canale 10, cambio. Prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Già va bene così, va. Io lo risumata questa capsula, ce l'avevo, questa è buca la vicia, l'ho tutta pulita e vedo che va bene, dai. Sì, si sente una leggera alternata orologio. Sono da 2.20, capito, per quello forse. Ma solo se metti a portante multa, Lo sento anche io in cuffia, mi ho messo le cuffie per provarlo, Lo sento anche io in cuffia adesso. Comunque mi è riuscito l'esperimento, Ho fatto un po' di casino per, diciamo, l'ho dovuto, come si dice, l'ho dovuto scomodificare, Io lo stesso c'ho un pace, bello. Qual è? Quello di Claudio? No, è un pace di X 2300B, 23 canali. Certo, questo qui pompa, è forte. Io mi sento, se non è che mi dà l'impressione in cuffia, ma sembra che vada bene, Sembra che vada bene. Riprendi Luca e fai girare. Non c'è nessuno. Come non c'è nessuno? C'è qualcuno su 10, Gambio? Adesso va bene. Poi va a battere in bocca. Che radio te? carità di Dio, Gianni, so quello che posso dire. Sembra, non lo so che... Forse non avevo un altro canale, dai, aspetta che vado a fare le prove. Io mi sento bene qua, ma tanto non ne ho. Adesso sto parlando da lontano, sto uscendo con una cappa sulla... di Tokai, sul microfono normale. È una modifica che ho fatto io adesso. Gianni, se allora tu ritieni così, non è che hai controlli a me. Vai, un altro canale, chiedi un altro canale, ok? Visto che tu ritieni che non siamo buoni a dare controlli, sembra che c'è una patata in bocca, ma radio così brutta non ne ho mai sentito in tutta la mia vita. Vabbè. Di Tokai, capito? Ciao, vero. Io mi sento bene, però non lo so. Avete parlato insieme. Meglio di tu il controllo, Luca. Io ho detto, se ci mette un eco migliora tantissimo comunque. Io lo sento con la patata in bocca, tutto impaccato. Oh, oh, 1, 2, 3, prova, cambio. 1, 2, 3, patate. Sei saturo anche. Adesso non sei uscito. Oh, oh, 1, 2, 3, bisogna che prema bene per uscire. Se non premo bene non esco, ma prima comando. Oh, non lo so. Questo qui è una radio nuova. Cosa vuoi? Se tu mi chiedi che uscendo bene, va bene così. Per me sto uscendo, non male, di più. Ma è, poi, se non ti registro, se no... dice che per te sta uscendo bene. No, no, non sto dicendo questo, claro. Perché io qua in cuffia mi sento bene, poi se mi falsa, non lo so. Però in cuffia sto facendo gigante anche un bel principale. Parla che ti registro e te lo mando, perché hai parlato poco. Poi mi dici se questa è la radio che sta uscendo bene. No, non è che non ci credo, claro. Io ci credo, però io ti sto dicendo come mi sento io in cuffia, poi magari mi falsa, non lo so. Ascoltati l'audio, Gianni, se stai dicendo bene, non sfalsa, non vi fidate le cuffie, corrispondente che ti deve avere il controllo. Ascoltati l'audio, sei tutto impattato, sei tutto va impattato in bocca, avanti break. Invece sta uscendo basso di radio con un rumore di alternata. Ciao Club, buonasera. Ma sì, basso di radio c'è un rumore di alternata. Ande muore, ande mucchetta, ubo. Sta uscendo anche tu non bene, Claudio. C'è un rumore di alternata e la radio è bassina. Vediamo Gianni, ci ha migliorato qualcosa. Non c'è. Luca, riprendi. Chi c'è qua? Claudio, chi c'è qua? E se rispondete quando vi rilanciano, io rimango. Se no, vrabbilevi, butti in culo e me ne andrò a trabbarli. E ciao sblatte, caro, ti sento, cazzo, 23. Ciao, ma chi sei vicino? Ma tanto non ti sento, se ti muovi su va. C'era sì, ma se ne sono avrei risposto, no? C'ho sblatte da Macchisio. Tanto mi arriva sul D della DB, non arrivi nessuno usi, vabbè, è vicino, ma cudore che è vicino a me, a cottore. Allucinante, sulla D del DB mi arriva. Chi è che c'è qua? C'è che ho reggito da Muros che non lo sento intanto. Se c'è il tratto, non intendo a me. Poi c'era già dello Peruma che stava provando un microfono, però non so dove è andato a finire. Non lo so, e poi l'altro Luca. Bianco per me, ci sentiamo tra un attimo. Oh Claudio, metti a posto quel microfono e poi ci sentiamo. Vabbè, là dopo c'è. Attenzione 10, c'è qualcuno, cambio! Attenzione su 10, cambio! Umberto, li hanno dato i controlli? Eia, secondo passaggio andava bene, il primo no. Ecco, ti sto dicendo, io ti ascolto male Gianni, non so cosa dirti, poi tu la puoi pensare come vuoi, io ti ascolto male, ti ho registrato, sembra che c'è una patata in bocca, e sei anche saturo. Io sto ricevendo con una radio, non con un baracchino, sia col 430 che col 140 ti ascolto male. Del direttamente, così si può tagliare i veni. Allora, è anche brutto. Io lo sento male, non lo so, non devo chiedere. E dopo la torsione audio è impattato, tutto, non è chiara la modulazione. È tutto impattata, poi è leggermente saturo, compresso. E boh, poi vado impattato in bocca. Ciocla. Ciao, mi chiedi contro l'Antonello per se ti sente bene, che lui è esperto di radio. Ah, ma con il tendo più. Non sei uscito Gianni, prova a vedere con Antonello, boh, io ti sento male. Antonello, guarda a vedere come stai facendo di radio. Non è molto alta tra, la verità. No. È bassa la radio. Non è alta. Video tu qua. Saturo. Antonello, ma cazzo da giri per dare un controllo tu e bassa la radio, video tu qua. Ma cosa cazzo va bene che gira? Marco, dai controlli a Gianni, che a di me non si fila. Gianni, vieni avanti, a me sembra satura. Gianni, non riprende. Satura, nasina è brutta, a me non piace. Poi non lo so, se piace a te, dillo tu, non lo so. Gianni, fa un passaggio lungo. Guarda, 1, 2, 3, prova, guarda. Ora, 1, 2, 3. Sì, praticamente io sento, avvicinando l'orecchio, anche un po' di saturazione, ed è nasina, no, non è la tua radio, assolutamente non paragonabile alla tua radio abituale, quella è bianco che sto mangiando. E via. Capito già, lui dice che è nasina, io nasina non te l'ho detto, ma è impattata, non è una radio bella. Che cazzo sono io messo in questo microfono? All'orecchio di chi ascolta, dall'apparecchio all'altoparlante. Comunque non è buona già, non è la tua solita radio. Ok, dai, buonasera a tutti per la cronaca. Dai, ho commutato adesso, stavo ascoltando sul 23. Gianni, che microfono stai usando in quella radio? Non sei uscito. Ti ho messo la capsula del toccai. Ho capito, ma evidentemente l'impedenza è diversa. Cioè la modulazione impattata. Capito? Tonalità bassa impattata, confusa come modulazione. Come te volevo dire? Non so spiegarmi. Vabbè. Ok, andare. Non mai. Non hai altre capsule. Sentire, ma. Cosa ma. Ho detto, se vuole gliela faccio sentire, però non è bella, non è una modulazione normale, ecco. Gliel'ho fatto sentire, però direttamente lui dice che si ascolta bene, non lo so, stai attento all'impedenza, può darsi che sia l'impedenza, guarda che è 600 ohm la capsula del toccai, 600 ohm, noi dobbiamo usare massimo 500, hai capito? Non so nemmeno che radio è, che microfono è, non ne ho idea. Non l'ha detto che radio è, ha detto che è una radio nuova, quindi non so che radio è. Se lo vuole dire lo dica, se non lo vuole dire non è un problema. Però non sta uscendo bene. La capsula del toccai era 600 ohm. Capito? Lì sicuramente ce ne va una da 400, massimo 500. Ma non dovrebbe influire più di tanto con quei valori, però. Non so se sia la capsula o il modulatore, boh. Vabbè, si fanno le prove con calma. Pomponio, riprendi. Pomponio, non mi sembra molto in forma stasera. Potrebbe aver fatto il pieno? Non lo so se ha fatto il pieno di benzina o di gasolio, ma non ha rilanciato il microfono e l'ha provato a rilanciare a me. Antone, mi senti? Insomma, ci sono tutti e non c'è nessuno che sugarali. Dai, sto mangiando, a dopo, ciao, un bacione. Ciao, oh, io ero fuori, sono andato al centro a fare commissioni, ma c'eravate prima o avete acceso adesso? Forse dite il nominativo di Chiodo anche, magari ne ascolta anche lui. Chiodo Arginito, ci sei? Niente, bella rotta, va bene. Dai che sto mangiando, a dopo, ciao. Mangia, che forse è meglio. Ma c'è rimasto nessuno. Hola, 1, 2, 3, prova. Tutti voi che ti vieni qui. Hola, 1, 2, 3. Aspetta, già che sto ascoltando il messaggio. Dunque aspetta, sto predisponendo qua. Che casino. Ti faccio sentire come qua, come qua. Ci sei già. Sento doppio rum, doppio rum. Ci sono, ci sono. Ehi, però parla normale, un volume di modulazione normale che avvio la registrazione, prova. Ehi, adesso mi sono a distanza, vediamo un po' come va. Dimmi come sto andando in questa modulazione nuova, là. Vediamo un po' questa modulazione che fa cagare. Adesso te la mando. Sì, a me la sento satura e impastata, è come se, nota bene, come se fosse satura. Magari il mio orecchio mi inganna, però è impastata, ti mando il file. E quindi valuti più ricevitori, no? Più stazioni e poi trai le conclusioni. E chi era l'altro avanti? Buonasera. Buonasera. Ciao Francesco, ben sentito. Oggi hai un segnale più basso, sei Santiago 6, però io ho QRM elettrico, un bel po' di QRM a 5 ed è di tipo elettrico. Come mai non mi invia il file audio? Ma ogni adivinevano con questi computer, per carità. Non sei già nella sentita? Beh già, ho reso l'idea. No, ascoltata. A scariche, cosa hai detto? Non l'ho ascoltata. Adesso ci ho aggiunto pure un fischio. Ma Gianni, a te ti hanno messo occhio. Altro è pindacciamento, questa è fattura proprio. No, questo qua è perché c'è una buona parecchia accesa con le cuffie. Io non dico più niente, sono qua che vi ascolto. Fate voi sì. Non ti riconosco più, Giacca. Cioè, dei microfoni eccezionali. Non ho capito cosa c'è inconveniente. Ehi, Claudio. Finalmente me l'ha mandato correttamente. Mia bucaria giovaniato, mamma mia, mamma di turchi. Ti dicevo, sì, comunque si sente che non è modulazione solita, è abbastanza bruttina, poi vediamo, sai cos'è, poi andrebbe ascoltata bene con un altro parlante, sai cos'è? Che il micro altoparlante che ha lo smartphone non rende nemmeno giustizia, capito? C'è la distorsione del registratore dello smartphone, in più è riprodotta dall'altoparlante che dallo smartphone, che non è una cosa stereo, non è una cassa stereo né di alta qualità, e quindi però vediamo Gianni cosa dice, cosa ne dice. Ma io sto ascoltando con 430 cassa esterna, con 140 cassa esterna la sua altoparlante esterna. Ho acceso anche l'altra radio, la stessa cosa, tutta impattata la modulazione, non va bene. La capsula, c'è qualcosa che non va bene al microfono, non è una bella radio come sono abituato a sentire bello chiaro, capito? La cosa che è molto brutta. Me la sto riascoltando anch'io. Sì, è come... non so come definirla, plasticosa, sì, c'è qualcosa a livello di mic lì, vabbè. Beh, prova lui, se secondo lui va bene, non c'è problema, va bene, però per me non va bene. Continuate, manda un ascolto, ciao anche a Francesco, buonasera, buon ascoltato. Ehi, oggi è giornata di QRM, QRMosa, vabbè, Gianni, sei entrato? Niente, vabbè, allora ne approfitto, porto una cosa a mamma. Dai, se non rientro ritenetevi tutti salutati. Francesco, Claudio, Gianni, tutti quelli che ascolto, ok? Buona serata, dai. Ciao, ciao Marco. Che non sia originale anche Claudio, aveva una forma, era di quei microfoni Intec con i tasti frontali, non c'è una foto in grazia di Dio su internet, tutte piccole, sfocate, mosse, No, ma in te c'è la foto della radio, perché in base alla radio però ci si possa adattare qualche microfono anche di quelli normali, capito? Ma quello del Tokai, se vi ricordate, era 600 ohm il microfono, non era 400, 500. Quello è il mic originale, però non mi ricordo se è a condensatore o è a dinamica, credo che sia dinamica, sicuramente dinamica. Uli uli. Va bene così. Ok, ero mandato due di a Gianni. Sì, lì ci vanno bene quei microfoni, perché so che tipo di microfoni puoi mettere e basta. D'accordo, che attacco alto, Cambia Giacca, non stai uscendo bene. Dammi retta, cambia e sei tranquillo. Occupati un bel microfono e poi glielo metti. Sì, volume ne ha, però è tutta distorta. E io più che far sentire la registrazione, che fa fede quella, alla fine non so che dire. Io non ho bisogno di far sentire le registrazioni, se a me mi chiede un controllo io ti dico se va bene o va male, quella non va bene. Anche perché l'impedenza di quella capsula che ripeto da 600 ohm, se quella originale del Tokai, dicevo la capsula da 400-450, non di più. E poi con le tolleranze che hanno non credo che sia critica a me. Poi chi lo sa, io ho avuto una cosa simile, se non la stessa, ma non mi soddisfava per niente, non mi soddisfava, però credo di averla presa usata già all'epoca, quindi magari era già manomessa, chi lo sa, se è possibile. Queste sono radio vintage, radio vecchie, quindi ce l'avevo anch'io quella, ho fatto a Gianni Carter, capito? Però riescono benino, vai. Se sono abbinati dei microfoni, le radio vecchie riescono bene. Non c'è. Però quella capsula lì non va bene, quel microfono va bene, assolutamente. Che connessione c'ha Gianni? A 4? Non me lo ricordo se è a 4, a 5, che connessione ha? A 5. Ah, mi ricordo la 5, la 5, 5. È un bel casino fare la connessione a 5 lì. Ma sai perché? Perché i tasti up and down a me. Perché se tu metti ricezione, massa, PTT e microfono, hai già fatto il lavoro a me. Io mi ero rimasto il connettore, lo spezzone a 5, capito? Cioè la prolunga praticamente me. Io ci avevo inizialmente nella macchina, c'avevo il coso, il Mobicom, e quindi era a 5. E quello era a 5 lo stesso, c'è lo stesso attacco del Mobicom. C'è l'attacco da 4 a 5, così è. No, è 5-5, è attacco 5-5, la prolunga avevo fatto già, perché ce l'avevo nel cassettino della macchina, da suo tempo, se mi ricordo che macchina era, e praticamente il microfono era corto, avevo fatto la prolunga da 5-5, e l'avevo messa sotto il tappetino, il microfono, solo lo spiralato mi usciva dal fianchetto e mi arrivava giusto in giusto alla bocca, capito? Già lo so io cosa metterci. Cioè, se ne ho uno in più di microfono amplificato, perché non metterci quello? Devo fare solo l'attacco. Il box lì ci va bene, già. Ma io ci metto la statica. Anche la tattica che 400 va benissimo, ma non superare i 400 ohm, perché da 600 non va bene, è spinta la radio, va bene, ma è patattosa. È spinta, 3 watt, e quello omologato, non ti credi che sia il salone, no? Siccome è bellina, mi piace, ma la voglio ottenere perché mi piace. Sì, ce l'avevo anch'io, quella, microfono originale, radio, ce l'ha già mica più, l'ho letta io perché avevo bruciato il finale collineare, capito? Sì, è omologata, non so se hanno la macchia, ma è omologata. Comunque, questa va bene, la ricezione, c'è una ricezione bellissima, tutto forte. E infatti aveva ragione Roberto, che aveva una ricezione buona. A me all'inizio non piaceva la vita, mi piace più con la due strumenti, più bello, che c'è il frequenzimetro, quello che c'è sotto, l'hai visto? Sì, beh, l'altro modello, sì, no, ma quella va bene, non è una radio, piglia un bel ingolpi, un bel piglia ingolpi, lo sto dicendo. Però il suo funzionamento ce l'ha, dai, sempre una radio vecchia. Abbinare un buon microfono, se ne abbina un buon microfono vedrai che esce bene, ma quello eliminalo completamente. Mettiamo la statica. Perché il microfono suo non ce l'hai? Sì, è questo, ma non c'aveva la capsula, era rovinata. Ho cambiato la capsula pensando di fare chissà che cosa, invece non va bene. No, perché è troppo alta l'impedenza già, capito? E ti fa la modulazione troppo cupa, troppo battatosa. Se tu riesci a trovare una capsula più piccola, impedenza più piccola, vedrai che va bene. Io ce l'ho qualche dura, ma non so che impedenza sia. Ho capito. Ma a me dell'appedale non me ne ha fatti nulla. Io mi sa che lo smonto e ci metto la statica. Ci metto il cavo della statica. Dovrebbe andare. Non andiamo in vai la pedana, ma con che cappedano gente, ce l'ho tutti io con la pedana, non ne tratto mai, ma cosa ne vai? Mi piace usare la manopolina, ma cosa la pedana. Ecco appunto, prova la tattica e ti usi praticamente due fili più la massa. Ricezione, trasmissione e la massa, e l'attacchi così. Questo la pedana ce l'ha anche nell'apparato, capito? C'ha l'eco, c'ha un sacco di roba. Era con lo stoccato, se ti ho detto che ce l'avevo anch'io con la radio, ho bruciato i finali, era giurata insieme a tutta quella roba che ho dato, l'ho data a Gianni KP2, ce l'ha lui. Infatti ti ho detto l'altro giorno Claudio, che la radio mette a posto. Ed è uguale a quella che c'ha Roberto, precisa identica, capito? Allora me l'avevo data a Walter, l'avevo comprata a Walter perché ce l'aveva doppia, comprata, regalata me l'aveva. Sì, è una radio che funziona, va bene. Però mettili un bel microfono. Se le metti un bel microfono vedrai che esce bene. Già lo so che ce la pediamo dalla radio. Ma io non idratto, non ho mai l'operato. Anche l'altra che ho ce la pediamo dalla radio. Però uso la manopola, capito? Cosa ne fai? Quindi eliminala e ti usi due fili più la massa. È grave come ti dici. Se c'è l'up-down non ne ha di manopola per i canali, c'è l'up-down. Se non devi eliminare l'up-down dalla radio, cosa cazzo c'entra già? Il comando del microfono lo elimina. Sì, quello sì, e lo so che devo fare così. Allora, mica la puoi eliminare, come fai a eliminare? Quello devi romperlo, tagliare da dentro, il sistema da dentro. Già lo so che c'è la pedaldia, se ce l'avrebbe uguale. Infatti nel microfono non ne avevo di up and down, ce l'avevo con la radio, ti sto dicendo. Capito? Ce l'avevo con la radio. E andavo con quello lì. E basta. Prova, ti e te lo fai. Sono due figli, ricezione, trasmissione e la massa. Tre figli sono. Sì, quando ne ho voglia. Domani lo tolgo e lo metto da una parte e poi vediamo che andrò a giocare al posto. Come hai preso qua a Sassari? Il continente. E io vado con me. Chi è la banca? No, no, ti ho dato girito, sei basso basso di radio. No, non stai andando qua. Ehi, controlla il microfono qua. Controlla il microfono che non sta andando. Non è ancora a posto. Alta, non lo porti. E io adesso, sono entrato adesso già, ero già Roma a prendere la mia figlia. Chiuso un po' più tardi, oggi si è fatto tutte le pulizie da domani mattina, capito? E sono entrato adesso, infatti mi ho fatto solo le scarpe, sono già pronto. Oh via, adesso non è diversi, adesso lì si sono arrivato, e le pizzerie tutti quanti, ma non male che li farò fare il trasporto, è così a domicilio. Io, non so come ti faccio la campana. Ci lavorano bene con le colazioni e con gli aperitivi, la giornata la fai, è chiaro che non puoi strafare, come sta facendo mia figlia. La giornata la fai già, ma non è un grande guadagno, purtroppo la perdita c'è. Ma stanno rompendo le palle i vigili urbani, stanno rompendo le palle. Stava dicendo stamattina Oggiano, il pizzaiolo, quello che c'è con la piazzetta carbonate, che hanno fermato nuovamente altri due suoi pizzaioli dopo le 10. Capito? Praticamente riporta pizze. L'hanno molto la multa. 72 euro a uno, 72 euro all'altro. Forse dice che per lavoro si può uscire, perché mi stanno mettendo le multe, non ho capito. Io so che per lavoro si può uscire anche fuori dell'orario. Per dire, la mattina se uno entra alle 4, tipo un panettiere, un pasticcere, che cosa fa se entra alle 2 a lavorare alle 3 e non ci va a lavorare? No, allora li hanno messa perché non sono dipendenti, capito? Non avevano preso il foglio che ti rilascia al datore di lavoro per poter uscire, per le consegne. Ah, ecco. Qua non lo so, qua lo stanno portando tranquillamente, mi hanno portato anche i calamari ieri, le patatine. Ci venderebbe già calamari e patatine? No, io ho un pranzo mega galattico il 20 che è compleanno mio di mia figlia, ma che lavoro va mia figlia, assolutamente, e abbiamo un bel congregato la carne oggi, campagna, tutta lì. E se la bene al culo, dove deve che l'ha inventato il burro? Sì, cioè deve avere il foglio appresso, capito? Che ti fa il tuo titolare per gli sfruttamenti. Loro non ce l'avevano appresso e hanno fatto prima 72 euro a uno, qua nella zona dei carbonati, nei giurbani, perché stanno girando anche la notte. E poi all'altro gli hanno fatto in via per Antonio Sciatta. Loro più di fatto, perché sanno che questi ragazzi si guadagnano 2 lire, 2 gigbo. Anche la multa le devono mettere. Infatti mi stava dicendo Daniele stamattina, oggi hanno detto, cioè, la pago io, non è un problema, però sono dei miserabili, cioè perché cazzo questi ragazzi vengono per guadagnarsi le 30, le 40 euro la sera, le 30 euro più che 40, mi ha detto, cazzo, e ne devi pagare 72, e la pago io uno e l'altro. Adesso gli ho fatto le fotocopie e se la tengono nel motorino l'autorizzazione, capito? Ma se ci riesce farmi faccia a tutti, le cose a cazzo deve pagare. Stanno lavorando, va. Vogliere, certo, nella moda nei domani, è tutto telematico già, nel modo più assoluto, assolutamente. Proprio verbale, non te ne vogliono nunca, no? Assolutamente, prima qualcosa potevi fare, se c'avevi l'amico, adesso non c'è più niente da fare. Come il comando del vigile è blindato, non si può entrare. È blindato. C'è il piantone 24 ore su 24 a turno. Tussone, ti apre, dica. Devo, non si possono pagare più le multe qua. C'è il conto corrente, c'è il numero, paghi via posta. Tutto via telematica. Dopo, io vado lì la busta, fa una busta. Non c'è giro già. Siamo arrivati alla frutta. Siamo arrivati alla frutta. La mia figlia le sono arrivate le cose da pagare del periodo che era in quarantena, ha fatto il botto, il buco andava a casa e pure devi pagare. Dice che non si pagava, l'ho rinviata, l'hanno fatta, sì, un gatto. Non parliamo di pagamenti. Sì, non mi vuoi dare a me di pagamenti. Lascia perdere. Lascia perdere. Non c'è tempo a mettere da parte subito che stanno uscendo. Uscendo me. Lascia figli. Vabbè, cambiamo discorso. Comunque, dai. Mi metto le scarpe e già vado a portare il cane. Fai quello che ti ho detto, vedrai che esce una favola a quella radio. Se no, già lo sai, mi ponemo un po', va bene, un MB più 5 o un MB più 4 e tu sei a posto. Non c'ho il posto qua, mi interessa più un microfono da palmo, vai. Non ho il posto per l'MB più 4 o più 5. Ahia. Va bene, ti sei a vedere qua, un cassetto. CMP 31, non ho capito cosa, come cazzo funziona questo, Made in Japan, bello, c'è cambiato la connessione, questo è a 4 di quelli vecchio stampo, ma il microfono è un bel bello, amplificato, non lo so, c'è un pulsante da una parte, ti faccio la foto e te lo mando. C'è presente quello della Turner, c'è anche la cosa bella morbida, lo sai, molto bella. C'è lui che lo voglia, c'è lui che lo voglia, è da pulire perché è bello da lavare, bello aspirare, tutto, però il microfono è nuovo. C'è presente quello della Turner, tipo così è però tutto nero. Sì, ho capito. Ma non è da Palmo, è da Palmo. Da Palmo, mi ti faccio una foto. Da Palmo è. Mandami. È uno standard CMP 31. E c'è la finale bella morbida. Il cavo è il connettore a 4 tagli, perché questi di quei connettori vecchi che si usavano un tempo, non sono neanche di che radio. E c'è un pulsante da una parte on. Vedi? Qualcosa serva. Sarà per accenderlo, no? Non è off. Questo è il commerciatore, vedete anche pigianti. Questo vuol uscire molto bene, Fino a questo, tu usi, ti te lo tagli e ti prendi i tre fili, lavati bene la spirale. Ciò te la lavo io, a chi fa di chifu. Questo non so manco chi me l'ha lavato. Ah, di più un certo me l'ha lavato questo. Questo non è proprio un certo, no, se ti mando la cosa, la foto. E li provo tutti e due, li provo quello e l'altro, vediamo chi esce meglio, lo lascio. E lo mandate già, è da pulire, tu già sei pratico, se no te lo pulisco io almeno, disinfettato, e tutto lo tanto le cose da cambiare qua, il connettore. Sì, però non ti preoccupare. Devo cercare il telefono, non me. Sì, poveroso, niente di sfuggita normale, però c'è una bella scritta, bello. Ma è grande, Bello da impugnare, proprio c'è una bella PTT di quelli. E ce l'avete? Lì c'è delle. Questo funziona bene secondo me, molto bene già. Un altro di questi mi sembra che l'ho dato a Tino, a Muccolo. Esce molto bene, lui ce l'ha su un baracchino, esce molto bene. È un bel antico! Hai visto? Non è un capito, non è una forma un po' strana, perché gli standard erano così, forse era di uno standard VHF marino, non lo so. Vuole pulito, no, no, no, come già. Vuole pulito, però cazzo, non capisco cosa sia. Io ci credo. Vabbè, dai, io provo, rimetto anche il coso, però, li voglio provare anche la stampa. Vediamo un po' come esce. Se non mi piace mi rovento. Ma la tattica, attacca la tattica che ci vuole poco. Ha diverso attacco, uno è a 5 e l'altro a 4, capito? Beh, anche questo sarà a 4 fili sicuramente, già. Non è a 5. E lì mi ti ho letto il down e up dal microfono e ti usi i 4 fili, che sono poi 2 più la massa, capito? E vabbè, dai. Vediamo, siamo resti sicuri, non faccia, se no si abbia luce. Se sicuri sarà molto difficile già, non so. Dio mio, a Claudio, però Claudio dovrà chiedere al padre, di quella radio lì, io gli ho dato il microfono anche, capito? Dovrebbe avere il microfono suo. Allora, ti spiego, il microfono suo originale ce l'ha. Era la capsula che non funzionava e praticamente l'ho sostituita, però era già in conto, ho capito che non andasse. Io l'ho sostituita, sapevo già che non funzionava la capsula, l'ho sostituita, ho visto che andava, pensavo in cose in cuffia, sembra amplificata, forte, cazzo, sembra una bella capsula, invece a volte le cuffie ti falsano le cose. No, già amplificare le cuffie, vuol dire le cuffie. Io quando faccio la parola ascolta, sai che cosa faccio? Mi ascolto col moni di una radio HF, che c'è il moni. Allora sì, allora è più fattibile, ma quando ti ascolti in cuffie così, ti sfasa sempre, capito? Ma io non posso farlo con la radio HF a chi non l'ha giù. Spero che devo mandare un messaggio a Bomboli. Allora, beh, io vado a portare in carica. E io vai tranquillo, là, c'è un po'. Se c'è Marco, magari, Marco. Qualcuno qua?